Vacanza di lago. Capitolo decimo. E se avessi davvero sognato, ancora una volta? E se tutto questo non fosse mai avvenuto, pensava tra sé Martin. La nonna era girata ancora di spalle, verso il lavello. Martin guardò l'ora. Ricordò che avrebbe dovuto incontrare Edoardo per la questione della bicicletta. Si vestì in fretta. Prese i suoi indumenti ed entrò veloce nel bagno. Appena entrata, osservò il lavandino, le sue forme, il riflesso ghiaccio del bianco, con lo stesso faretto centrale acceso sullo specchio, che disegnava gli stessi precisi contorni dell'immagine orripilante di quella notte. Cominciò a far scorrere l'acqua e identificò la familiarità dello scroscio, i tempi e la durata dell'effetto sonoro, che adesso le rimbombavano dentro come riverberi nella stessa dinamica di quel getto notturno, come risonanze soffocanti e sinistre. Dopo essersi lavata, Martin cominciò a vestirsi in fretta, tentando di non farsi incatenare da quei pensieri così viscosi e temendo di fare tardi. Ogni tanto scorreva con gli occhi verso gli angoli più disparati di quella stanza spettrale, bianca, per scorgervi ancora quel minimo indizio trascurato. Quel particolare ancora nascosto, che forse ne avrebbe confermato la veridicità della sua strana visione notturna o della sua follia. Nel water un ciuffo di capelli bianchi, pochi, sfibrati. Forse un residuo di una spazzolata più energica di nonna Teresa. Non ci feci più caso. Uscì fuori Martin. Quella mattina era senza trucco, perché non aveva più tempo. Uscì di fretta, salutando entrambi i nonni ad alta voce, ma senza ottenere alcuna risposta da nessuno di loro due. Allora ritornò indietro, caparbia, decisa a salutarli singolarmente. Si avvicinò per la prima volta alla nonna e l'abbracciò forte, di spalle. Senza parlarne. La nonna stava piangendo, nel silenzio, in penombra. Alfio invece era chiuso ancora a chiave nel suo studio, fumando. Martina allora uscì fuori di corsa, oppressa da quel clima che le stava diventando sempre più opprimente, irrespirabile. Gli occhi gonfi, il respiro già troppo grosso per quanto poco avesse corso. Affannava da ferma, come in un turbine improvviso di asma. Si avviò sul primo sentiero in direzione della fermata della corriera. Si sentiva strana, ma appena più leggera, allontanandosi da quella casa. Adesso aveva solo un bisogno urgente di parlare con qualcuno di quel suo problema. L'unica cosa che la tranquillizzava era la certezza di aver deciso di raccontare a qualcuno tutto quello che le stava accadendo, forse per una pratica esorcistica, un antidoto. Martin proseguiva, sempre più instabile e assonnata fin dentro il passo, per quel sonno inquieto e debilitante che l'aveva lasciata più distrutta e stremata di prima. Un riposo gravoso, come un macigno. Affrettò il passo, guardando case, alberi, quelle rare persone di passaggio che incrociava lungo la sua strada. Ma adesso con un occhio completamente diverso, forse con un occhiale più attento e indagatore, più sospettoso, ma appannato dal fumo della sua gola. Il lago la circondava ancora da ogni lato e sembrava respirarle dentro e molestarla con i suoi frusci sonori, conoscibili, viscidi, ancora come notturni, amplificati a ogni minimo spostamento nella sua direzione. Il vento. Appena in risalita, che le concedeva l'odore graffiante e dolciastro dell'acqua tiepida, come accenno di una carezza o di una molestia intima di uno sconosciuto, che le avanzava dentro, infondendole misteriosamente una calma profonda, oltre le sue ginocchia magre, veloci, scoperte dal vento delle sponde. Avvertiva l'erotismo degli odori. Di tutto quell'ambiente ancora informe di una luce indefinita, farsi come un antidoto agli agguati della sua mente così selvatica. strania. La casa degli zii di Pierre a quell'ora del mattino era già immersa tutta nella luce solare, per un'esposizione diversa di squarci collinari, da cui sembrava cominciare gradualmente ad aprirsi, anche se con ritardo, l'azzurro più chiaro della giornata. La finestra dove di solito il loro nipote studiava era muta, spalancata. Un uccello oscuro sul ramo gorgheggiava, quasi a sostituirsi illegittimamente alle sue esecuzioni pomeridiane, nell'artificio di un leggero sacrilegio, dissolvendo nelle sue canzoni naturali l'evanescenza delle armonie sprigionate come sudore dal suo tocco dorato e borghese, e sempre così misurate e regolari che sembravano così legate ancora e serpeggianti nell'aria. Andando oltre la casa, le strisce di sole aumentavano di continuità, fino a inondarla completamente di una luce bianchissima, che la oscurava per la sua troppa intensità di luce. Martin si fermò per non sbandare contro qualcosa o qualcuno. All'improvviso un ronzio di bicicletta, rallentandole bruscamente di fianco, nel suolo pulito e riposante della catena e dei raggi all'aperto, ingranaggi liquidi. Edoardo, ma da dove sbuchi? Non ti ho vista la fermata, vedo che mi è andata bene. Un'intuizione. Come quella della pioggia di stamattina, vero? Solo che pensavo al cielo cambiasse percorsi, lo sentivo al naso. Ma allora sono in ritardo. Che fai, sali? Sicuro che qui si possa davvero stare in due? Certo che sì, monta su che ti sorreggo. Andiamo, ragazza, diceva Edoardo, incitandola a salire. Martina, imbarazzata ma contenta di averlo incontrato, si mise a sedere sul bordo metallico di quella bici sottile, cercando in tutti i modi di non rintracciargli i pedali e di non sbilanciarsi troppo. Io da qui non vedo quasi niente, ho tutto il sole in faccia, disse Martin. Ci sono abituato. Quando è troppo, però. Allora proseguiamo per il ponte, ti va? Se ci fosse un po' d'ombra, allora, volentieri. La bici proseguiva, strisciando come il cotone sopra le strisce spiumate dell'erba e qualche ramo di faggio accartocciato, appena spezzato. Il vento che aumentava e sembrava allontanare le paure di Martin, che adesso cercava di riequilibrarsi alla meglio in quella posizione ancora così scomoda sulla bicicletta. Ci siamo quasi. Cerca di non muoverti, però, che manca davvero poco. Le conosci molto bene queste zone, vero? A te cosa sembra? Mi sembri uno del posto. Strano che però non ti abbia mai visto prima. Da tanti anni che vengo qui. Ho sempre esplorato fin da bambino le zone circostanti, diceva Edoardo, al mio borgo, ma giusto in tempo per passarvi oltre. E senza mai trattenermi troppo, senza mai diventare un abitudinario dei luoghi. Li ho sempre sfiorati un po' tutti. Vuol dire allora che tu non ti affezioni mai ai posti che incontri. Al contrario, Martin, li lascio soltanto respirare. E che quando lascio vivere le immagini al mio interno, poi succede che le conosco meglio, le approfondisco, le sento più mie a distanza e senza le interferenze. È come se mi si rafforzassero una volta sedimentate dentro. Che strano. A me invece succede l'esatto contrario. Ecco, ci siamo. Attenta che sto per frenare, Martì. Non ti muovere ancora, mi raccomando. Finalmente. Che bello qui. C'è un'aria così sottile. La sosta fu dolce, quanto tutto il percorso. Il piccolo ponte era molto più in ombra, come Martino lo ricordasse, e spezzava il sentiero prima del grosso portico, intrecciato di violette e gradioli. Il sole in quel punto era molto meno forte, tollerabile. Gli alberi più massicci erano incolonnati a formare una galleria di picchetti che succedeva al primo tratto più fitto di bosco, alla testa del selciato, colmo di ghiaia. I due ragazzi, appena scesi, sedettero vicini, sul calore buono e funebre della terra soleggiata. Martin, con i capelli legati, che le scoprivano appena una nuca chiara, rigata appena da quelli più sottili e aderenti al collo, che rimanevano impassibili all'avanzare di quella dolce brezza mattutina. Allora, signorina Martin, che cosa ne dice? Dico che rimarrei qui per tutta la mia vita davvero, sarebbe bellissimo. e non te lo avresti per tutta la vita. Avrei bisogno di parlarti, Edoardo. Edoardo chiuse gli occhi e tirò un grosso respiro, girando tutta la testa all'indietro, verso l'alto, con la faccia conficcata nel cielo. Parlarmi? Perché mai questo bisogno proprio adesso? Stiamo così bene. Cosa c'entrano adesso le parole? Vedi, Edoardo, è da qualche giorno che mi stanno succedendo delle cose strane. E il fatto è che io non riesco a capire se sono io che vedo quello che non c'è, oppure... Dio, quanto è difficile spiegarti tutto questo, non so. Allora, perché non continui? Martin si fece forza e cominciò a raccontare delle sue strane visioni notturne e del crescendo della sua inquietudine e di quello che le era accaduto al corso, del comportamento oscuro dei nonni e dell'incertezza che aveva nell'identificare la natura esatta di quegli eventi così strani, ma le sue percezioni nebbiose, confuse. Vedi, Edoardo, le diceva, anche le persone che mi stanno intorno stanno cambiando a vista d'occhio. È come se le perdessi all'improvviso, in un niente. Io credo soltanto che tu stia attraversando un momento difficile, delicato. Nient'altro. Ma tutto qui sarà solo stress. Edoardo si accese una sigaretta, lentamente, come per prepararsi ad un approfondimento che Martina adesso attendeva con un'ansia irrefrenabile, attenta e stupita a ogni suo gesto, prima che ritornasse a parlare. Invece, dopo la prima boccata, Edoardo cercò in ogni modo di cambiare argomento, puntando poi lo sguardo verso la statina laterale, che avevano entrambi negli occhi a pochi metri. Ti andrebbe di proseguire in quella direzione adesso? Le disse. Martina, rimasta delusa, si ombrò e cercò allora di lanciargli un messaggio chiaro e severo di disappunto, per quel suo sorvolare rapido su quelle sue inquietudini così urgenti, che gli stava appena cominciando a svelare, come in un grandissimo segreto, inconfessato. Io in verità non avevo ancora finito. Scusami Martini, ma vedi, io non vorrei che si confondesse il mio lavoro con la mia compagnia. Possono succedere situazioni imbarazzanti. Tutto questo è materiale delicato che non si può affrontare come una semplice chiacchierata tra amici. Cerca di capirmi. Allora, a chi dovevi parlare di tutto questo? Con la tua famiglia, Martini. È lì la prima sede delle tue comunicazioni. E poi non pensare mica che io abbia la bacchetta magica. Eppure un po' ti credevo diverso, non lo so. Se ti parlo così, è perché io credo che tu non abbia assolutamente alcun problema. Te ne attraversiamo soltanto un periodo difficile, forse dei cambiamenti importanti. Anche la storia del violino, non credere che non lasci tracce. Ma niente di così grave, credimi. Io lo spero davvero. È solo che ci contavo nel parlare con te, invece mi sembra che... Adesso basta. Stamattina dobbiamo pensare alla tua bici. Non è così che avevamo deciso. Non capisco perché ti ostini così tanto. Mio padre avrebbe acquistato un violino importante. L'avrebbe fatto a mia insaputa, e allora... Mettere in ballo un altro acquisto, intendo quello della bici, proprio adesso. Non so a casa come la prenderebbero. Forse penso che sarebbe davvero il caso di lasciar perdere. Mi dispiace. Uno strumento. E ti hanno detto almeno che strumento è? So solo che l'ho preso a Parigi da un grosso liutaio e che ha speso tanto, ma mio padre non è ancora qui. La notizia mi è stata riferita appena ieri sera dai nonni ed è per questo che... E tu cosa pensi di fare? Disse Edoardo. Vedi... Questo è un altro grande problema. Continuare a studiare il violino contro la mia volontà solo perché ne ho uno importante, insomma, mi sembrerebbe un altro bel controsenso. Tu sei davvero sicura che il discorso con Flushing ti abbia convinto al 100% che quella non sia la tua strada o che non vada più tentata? Non è che potresti pentirtene un giorno? Ascolta, Edoardo, ascolta. Il fatto è che la mia non è una rinuncia, capisci? Io rinuncio a me se ci continuo con la musica. Come posso spiegarti? A questo punto una soluzione io forse ce l'avrei. Dici sul serio? Stavi cercando da tempo un buono strumento, un violino importante, per quel salto di qualità sul suono, che si cerca sempre di rimandare nel tempo in attesa di quella grande occasione che poi non arriva mai, o che forse le tasche siano sufficientemente piene sobbarcarsene la spesa. E allora, da quello che mi dici, non escluso che potrebbe interessarmi la lotteria francese e che questo acquisto di tuo padre possa fare giusto a caso mio. Martina rimase stupita, pensierosa. Edoardo incalzò. Dovrei vederlo, dovrei provarlo per un po', questo è sicuro, ma pensi davvero che possa interessarti, senza averlo neanche ancora visto? Ti ripeto, dovrei provarlo, dovrei vedere di che si tratta, ma sarebbe una soluzione ottimale. Se solo mio padre riuscisse a raggiungermi, chissà cosa mi direbbe. Adesso sono così confusa. Edoardo alzò la bici e si avviò verso il prato, lasciandola così dov'era. Martina era distratta e irretita dall'entusiasmo dei suoi nuovi pensieri, da quella possibilità di svolta, così inattesa. Allora sei pronta, Martin? Si ritorna o non ancora? Martin ritornò a pranzare a casa, dove trascorse parte del suo pomeriggio, rimanendo chiuso nella sua piccola stanza, un po' a riposare, un po' a riflettere con gli occhi socchiusi alla sua finestra. A quell'ora il riflesso pallido sulla superficie del lago dilatava il tessuto caldo di un cielo indiano in un'aria tersa e immutabile, senza più ombre di vento. L'avanzare del giorno aveva già deciso di un azzurro più pulito. Le parole di Edoardo l'avevano allo stesso tempo confusa, ma anche un po' rinvigorita, in quel calesse barcollante di instabilità che la portò a macerarsi di dubbi e di grandi momenti di sconforto, alternandoli con qualche spiraglio debole di primo sereno. Dalla sua stanza, Martin circuiva con il suo sguardo già stanco il riflesso dell'ultimo sole sul lago, gli alberi sulla collina, che adesso sembravano come richiamarla ad ammirarli ancora, nella loro inquietante bellezza fiammante e sfumante, dal pomeriggio presto al tardivo. Avvertì l'impulso di vedere Pierre. A quell'ora forse l'avrebbe trovato a casa, uscì disinvolta di ansia per raggiungerlo. In breve tempo era già all'abitazione dei coniugi Dussier. Bussò alla porta con un'insolita insistenza. Aprì Pierre, stanco e sorpreso di rivederla. E tu che ci fai qui? Un piccolo saluto. Hai fatto bene a passare, un piccolo saluto, dici. Entra, dai, che ti preparo qualcosa. Martin seguì Pierre dentro la cucina. Sei da solo? Sì, gli zii sono fuori. Oggi è giorno di provviste, quelle grosse. Come è andata oggi con le tue lezioni? Oggi direi che è tutto da cancellare. Non so che cosa mi abbia preso, ma è stato un vero disastro, Martin. Il maestro stentava a riconoscermi. Tè verde o nero? Tè verde, va benissimo, grazie. Ti dicevo, non è stata per niente una buona mattinata, almeno musicalmente. Dovrò in qualche modo rimediare, si vedrà. Intanto stasera ritornerò a Luna Park con i miei amici del corso. Sono dei ragazzi in gamba, anche molto simpatici. Se ti va di venirci, io comunque te lo dico. E invece stasera ti sorprendo, Pier. Mi sa proprio che verrò insieme a te. Davvero? Allora questo sì che è un pomeriggio importante. Si deve festeggiare. O forse devo preoccuparmi, Martì. Oggi mi sei mancato, Pier, per la prima volta. La teiera era già sul fuoco. Pierre era girato di spalle a controllare l'altezza giusta della fiamma e ad ascoltarla, forse distratto. Di la verità, Martì, c'è qualcosa che ti sta agitando. Ti sento un pochino strana oggi, non lo so. Perché me lo chiedi? È forse normale sentirsi felici? È difficile sentirsi felici, impossibile esserlo per davvero, Martì. Puoi sentirti felice anche se non lo sei, mi segui? Perché poi mi vedi strana? Non lo so, c'è qualcosa in te che non mi quadra. Forse sarà una mia impressione, o chissà. Va tutto bene, Pier, anche se insomma, con i nonni le solite incomprensioni, ma in fondo sono sciocchezze. E a te con gli zii non capita mai. Io li adoro. Greta e Paul sono la mia unica, autentica libertà. Poi questo del lago, il periodo che inseguo con i pensieri per tutto l'anno, perché è l'unico luogo in assoluto dove mi ritrovi per davvero. Dove riprendo contatto con la parte più sincera e più profonda di me. E tutto questo avviene anche grazie a loro, al clima che riescono a crearmi intorno, alla loro discrezione, all'attenzione per i miei tempi così strani, così sregolati, con le mie esigenze, le mie cattive abitudini. E allora tutto un po' si trasforma e ti senti bene, protetto, forse qualche volta addirittura amato. Martin continuava ad ascoltarlo in silenzio. Poi sonnò all'improvviso e cominciò a singhiozzare. Pierre era ancora intento ad aprire le bustine dell'oro tè verde. Quando poi si girò e la vide piangere, rimase di pietra, spaventato. In alcuni momenti quasi senza più reazioni, tanta la sorpresa. Martina allora si ritrasse e gli rivolse di scatto le spalle, come se fosse stata scoperta nel pieno di un terribile misfatto. Scusami, scusami, Pierre, è stato solo un momento. Aspetta, che cosa ti succede? Ma avrò detto io qualcosa di sbagliato. Un fazzoletto, per favore, anche uno di carta. Pierre gli porse un fazzolettino di carta, con aria timorosa, ancora spaventata. È che non riesco a capirmi più in questi ultimi giorni. Sto dormendo anche male. Sento e vedo cose che non ci sono, e anche dei nonni stanno accadendo. Dei fatti così strani che mi confondono. Non so davvero più cosa pensare, Pier. Ma che cosa succede, Martini? Ma se fino a pochi minuti fa ho bisogno di capire, Pier. Poi quando tu mi hai detto che qui ti stai ritrovando, allora sono stata presa da un'angoscia fortissima, perché vedi, a me sta succedendo l'esatto contrario, e piano piano sto scomparendo anch'io nel lago. Con tutte queste sensazioni oscure, con le mie paure, con le mie incertezze, penso che mi stia ammalando sul serio. Martin si fermò, si soffiò il naso. Sembrava ancora più imbarazzata, ma cominciava a sentirsi meglio nel suo immediato raccontarsi, che ne era esploso dall'interno, quasi senza una volontà. Vuol dire che allora forse è anche un po' colpa mia, le disse Pierre. No, tu non c'entri niente. L'acqua per il tè che bolliva, scandendo lo sfondo appannato sui vetri nel suo lento vapore, nella calma del suo primo gorgoglio. Un gruppo di corvi serpeggiava nell'aria, graffiando le chiome arse imbrunite delle colline, con la scia sfocata del loro aereo passaggio impetuoso, appena più pesante e cupo del solito. Quanto zucchero, Martì? 2, grazie. Stasera vuoi venirci lo stesso con noi? Certo, che domande, asciugandosi le lacrime. Hai parlato con qualcuno di quello che ti sta accadendo? No, in effetti no. Nei particolari non dovrebbe saperlo nessuno. Dimmi la verità, Martin. Guardami negli occhi. Sono il solo a sapere di questi tuoi problemi? Martin prese a sorseggiare il suo tè, spostandosi subito dal bordo della tazza che scottava. Papà mi ha comprato un violino. Adesso cosa c'entra? Lo vedi che allora non connetti davvero? Se cominci a fare così, allora non ho più voglia di parlarti delle mie cose. Ah, ok, Martin. Tranquilla. Dai, che ti ascolto. Lasciami stare, che adesso sono stanca. Mi arrendo. Vedo che non c'è più modo di comunicare tra noi. Allora, questo nuovo violino? Niente, mio padre lo ha comprato nel momento peggiore. Io allora, adesso non so cosa diavolo farci. Tutto qui il problema. Tutto qui, ma scherzi, Pierre, ma tu non lo conosci, eh? Posso darti un consiglio? Un consiglio grandissimo, però devi ascoltarlo. Vediamo, dimmi. Quando capitano questi momenti un po' difficili, in cui hai paura, in cui ti senti giù, in cui sei spaventato, oppure fai brutti sogni, beviti un goccino di brandy spagnolo, o di buon Armagnac, e vedrai che ritroverai come per incanto la tua pace. Fidati. A me è successo prima dei concerti, bastava un goccio e tutto riprendeva a sorridermi, come in un sogno. Troppo semplice, e poi io non bevo mai, non sono abituata, mi farebbe solo male. Quest'idea non mi piace per niente. Io ti dico almeno di provare. Hai solo bisogno di riposare la tua testolina un po' matta, porta anche lei al lago, altrimenti rischiai davvero di caderci dentro tutte e due, capisci? In un lago caldo di alcol, colombina. Pierre esplose in una risata isterica che sembrò scuotere di rabbia gli oggetti della casa, le vetrate sottili della credenza, il tè ancora caldo e fumante nelle loro tazze. Sei veramente impossibile alle volte, io che ti avevo raggiunto con tanto entusiasmo. Stasera bevi un goccino prima di scendere e vedrai che i tuoi problemi svaniranno. Non so se ci sarò più stasera. Allora sei andato proprio di matto, Colombina. Ma se fino a pochi minuti fa. E a che ora ci si vedrebbe, nel caso? Sempre dopo le 9. Ti conviene mangiare qualcosa prima. Ti farò sapere al momento la risposta, disse Martin. Io comunque direi di rimanere di rimanere sciolti. «Guarda, Martin! Affacciati, affacciati!» le disse Pierre, guardando fuori. «Un'aquila reale! Corri!» Dalla finestra si scorgeva un volatile grosso, che planava nella calma minacciosa del suo volo, oltre le alture più lontane appena sfocate, alle spalle delle ultime colline, apriva le ali, rimanendo sospeso e abbandonato nella bellezza di quelle sue altezze abissali, pericolose. Martina raggiunse Pierre alla finestra con la tazza ancora in mano. Chissà che cosa si prova a stare lì. I due osservarono in silenzio il solco regale dell'aquila, che si posava dentro le prime piaghe rosate del tramonto. Martina strisse un braccio di Pierre. Lo fece con forza. «Ho quasi paura a guardarla.» «Perché paura?» le disse Pierre. «Il fatto che sia sospesa, a volte quasi ferma a quell'altezza, e che si riequilibri dentro quello stesso vuoto, mi dà un'angoscia.» «Non lo so, a me invece dà un senso di eleganza, da così lontana. E se si sentisse male all'improvviso, se perdesse il controllo di sé», disse Martin. «A volte mi sento anch'io in quello stesso vuoto e mi sembra tutto così difficile.» «Invece non è vero. La sua natura è quella della stabilità più assoluta. Il controllo sensitivo degli spazi», diceva Pierre, «delle altezze, la destrezza e la maestria dell'aria nelle ali, non potrà mai cadere, se non per cause esterne. La sua esistenza è già un'arte. Non deve fare altro che vivere, che è già perfetta così. Guarda, Pierre, adesso sta sfumando oltre le montagne. Adesso è quasi scomparsa, è quasi un punto e non si vede più.» L'aquila non si vedeva più. Ed anche il sole cominciava a calare, lasciandoli ancora fermi lì, a guardare con le tazze ancora calde e vicine il cielo mutare e farsi più oscuro e più profondo sui loro visi perduti.